Legalizzatela è una frase fatta, ma è un fatto e non un'opinione. Direi il fatto che non sono un fattone, amici miei, se mi faccio ogni tanto un po' di cazzi miei. Diamoci del lei, siamo tutti gay, siamo idee nel tempo del tempo e Cici Sbei. Buddha e Vishnu si danno del tu, forse Gesù e Dio si danno dell'io. Dio è una lucertola ubriaca in una vetola, Dio è un calcio in culo all'opinione. Dio è una libellula che vola in una cellula, muove le sue ali senza ragione. E più si fa il callo, più rinnego Cristo, più canta il gallo. Con quale strana arma Cristo si suicida? Un bacio calibro 30 di quel Giuda di Giuda. Io mi scriverei di corsa all'Opus Gay, per rimorchiare meglio i voti prenderei. Guarda chi si vede, una frase che diventa vera se stesso guarda me. Dio è poco pratico, Dio è antipatico, Dio è l'inchiostro dell'analfabeta, Dio è un porco spino che punge la tua mano se tenti di afferrare il tuo destino.